Oltre agli Han, l'etnia cinese, che costituiscono circa il 91,59% dell'intera popolazione, vivono in Cina altri 55 gruppi etnici. Queste minoranze generalmente hanno una propria cultura e lingua tradizionale e, sebbene piccole come popolazione, abitano il 50-60% dell'area totale del paese. Nella galassia di etnie della Cina, diversi gruppi richiamano a tratti l'attenzione internazionale. Il più conosciuto è quello dei tibetani, ma anche gli altri, meno noti, sono ugualmente problematici per il governo di Pechino. Il grado di integrazione dei gruppi etnici di minoranza con la comunità nazionale varia da gruppo a gruppo. Nel suo intervento, Guido Samarani, docente di storia della Cina presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, illustra l'evoluzione storica del difficile rapporto tra gli Han e le minoranze etniche, spiegando come anche oggi piccole patrie siano spesso poste in difficoltà dalla volontà forzatamente unificatrice all'interno delle compagini statali. Sentiamo Guido Samarani. Naturalmente è difficile abbandonare il Tibet, perché è la punta grossa di un iceberg complesso. Tuttavia vorrei allargare un attimo il discorso, perché ripeto, Tibet è una questione fondamentale, importante, ma si colloca all'interno di una galassia storica, di una questione storica che non è stata risolta, ed è quella del rapporto tra quelli che si chiamano i cinesi, cioè gli Han, cioè il 90% circa, 90-91% di quei 1 miliardo e 300 milioni di cinesi che abitano oggi la Cina popolare, e quella parte, che sono minoranze, che abitano, sono sparse in varie parti del territorio della Cina popolare. Oggi, credo che statisticamente, in Cina popolare sono classificate 55 minoranze nazionali, cioè gruppi etnici diversi dalla maggioranza, da quel 90%. I cinesi le chiamano minoranze nazionali, questo è il termine in genere che utilizzano, e naturalmente la sorte di molte di queste minoranze che sono state ed è diversa, la loro collocazione, la loro posizione all'interno della galassia cinese è molto diversa. I problemi che la questione tibetana e la questione del Xinjiang evidenzia sono problemi molto che esistono, ma sono sicuramente in molte parti stati risolti o sono molto meno gravi e molto meno radicali in altre parti del paese nel rapporto tra cinesi e minoranze nazionali. Il problema storico è un problema complesso, perché va al di là, secondo me, della questione comunista, cioè della gestione comunista del problema delle minoranze. Cioè è un problema radicato appunto nel rapporto tra i cinesi, Han, e complessivamente la varietà della popolazione, la diversità in un territorio della popolazione, in un territorio, ricordo, di poco meno di 10 milioni di chilometri quadrati, quindi un territorio grande come gli Stati Uniti, e oggettivamente al cui interno esistono forme linguistiche, culturali, costumi, stili di vita, abitudini alimentari spesso molto diversi e spesso anche radicalmente diversi. Basti pensare, non so, alla Cina del Nord e alla Cina del Sud, basti pensare a Pechino e Canton. A me sembra che il miracolo della Cina sia l'unità. Cioè l'unità politica territoriale di questo paese, secondo me, è una specie di miracolo quotidiano. Quando è che, in tempi moderni, senza andare troppo indietro, quando è che nasce, a mio modo di vedere, in modo particolare, in modo specifico, questa questione nazionale del rapporto tra la maggioranza cinese e le varie minoranze nazionali? Io penso che se dovesse indicare una data, un periodo storico, questo sarebbe la fine, l'ultima parte dell'Ottocento e il primo decennio, i primi 10 anni, la primissima parte del Novecento, per due ragioni essenziali, io credo. La prima è internazionale, cioè l'intervento di una serie di forze straniere che ai confini con la Cina, che contribuirono a ridisegnare il volto delle relazioni all'interno della Cina e nei rapporti tra la Cina e le aree periferiche, le aree di confine. Pensiamo, per fare il caso specifico, il Tibet, il ruolo che l'Inghilterra svolse tra fine 800 e gli inizi del 900, il ruolo fondamentale, gli interessi inglesi nell'area, muovendo dalla base dell'India che gli inglesi avevano conquistato e in cui avevano consolidato nei periodi precedenti il proprio potere, e in cui quindi il Tibet, che confina, come sappiamo, nella zona con l'India, diventa un oggetto di interesse molto forte per gli stessi inglesi, con il governo cinese allora a cercare ovviamente di frenare queste intrusioni, o quelle che il governo cinese considerava delle intrusioni. Quindi questo è, diciamo, il primo elemento, secondo me, chiamiamolo esterno, internazionale, che a fine 800, a prima parte del 900, sconvolge l'assetto di stabilità relativo. Ecco. Non è, nel senso che la dinastia mancese che governa la Cina in quel periodo era riuscita a grandi linee a mantenere un certo tipo di controllo, ad esempio, sul Tibet fin dal 1700, ed era riuscita nella seconda parte dell'Ottocento a integrare meglio, più solidamente, il Xinjiang all'interno dell'impero cinese. Il secondo elemento interno che destabilizza la situazione, e cioè il crollo dell'impero cinese, la fine dell'impero cinese nel 1911, la nascita della Repubblica, della prima Repubblica nella storia della Cina, nel 1912, perché se noi andiamo a guardare a quei mesi, quegli anni 10, 11, 12, 13, in quegli anni cruciali, vediamo che uno dei processi principali in Cina è il tentativo di varie regioni, di varie aree, in particolare delle aree abitate o dominate dalle minoranze, di separarsi e di staccarsi dal potere centrale, come era ovvio che avvenisse, come era abbastanza logico che avvenisse. Quindi di staccarsi da Pechino, di approfittare del caos, del passaggio, della guerra civile, delle contese interne in Cina dopo l'11 e il 12 per riprendere la propria autonomia, allargare, oppure allargare la propria autonomia, o addirittura ipotizzare un futuro di indipendenza o di distacco dalla Cina. In effetti, se guardiamo alla reazione cinese, alla reazione dei governi cinesi di allora, quelli che si chiamavano i signori della guerra, i militaristi, quindi i comunisti non c'erano ancora in quel periodo. Se guardiamo a Sun Yat-sen, cioè il padre della Repubblica Cinese, il fondatore della Repubblica Cinese del 1912, troviamo una serie di elementi comuni a quelli attuali, a quelli del dopo il 1949, cioè troviamo una politica, un tentativo di duplice. Uno, nelle fasi critiche, di utilizzare le minoranze nazionali, il loro malcontento, a favore, utilizzandole a favore della lotta politica e della lotta militare in corso in Cina in quel periodo. Secondo, quando la stabilità viene raggiunta in un certo periodo, l'idea che le minoranze nazionali siano parte integrante, o debbano essere parte integrante assoluta, totale, dell'universo cinese. Quindi il rapporto tra la maggioranza, tra i cinesi Han e le minoranze nazionali, viene sostanzialmente ridotto e semplificato ad una questione relativamente secondaria. La questione primaria allora, agli inizi del Novecento e adesso in modo diverso, è la costruzione, l'edificazione, lo sviluppo e il rafforzamento dello Stato cinese. 100 anni fa era la modernizzazione della Cina e la sua ruolo internazionale. Oggi, in un contesto diverso, storico, 100 anni dopo, è più o meno la modernizzazione, le riforme e lo sviluppo di una qualità, di una presenza, di una qualità internazionale della Cina. Quindi questo è l'obiettivo finale fondamentale che c'era 100 anni fa e l'obiettivo sostanziale fondamentale che esiste oggi. Ecco, penso che da qui siano nati alcuni degli errori strategici di fondo. Probabilmente poi in una ricostruzione più ampia bisogna vedere se ci sono stati degli errori strategici di fondo anche dall'altra parte, dal Dalai Lama, dagli Uiguri. È probabile, la storia in genere non è mai proprio al 100% nera e bianca, eccetera. Però vorrei dire quello che penso francamente della situazione del Tibet e del Xinjiang, ma soprattutto del Tibet, perché questa poi insomma alla fine è un po' l'elemento principale che salta agli occhi di noi tutti. Del Xinjiang mi pare che non ci preoccupiamo particolarmente, non so perché, forse perché sono musulmani, non lo so, ma comunque prendiamo il Tibet come simbolo. Ecco, vorrei dire francamente quello che penso, che è diverso da quello cui spero. Cioè io spererei e mi aspetterei che un paese come la Cina, cioè è chiaro che per risolvere un problema bisogna essere in due, questo non c'è dubbio, però mi aspetterei che un paese come la Cina, che è diventato così importante, rilevante e autorevole in campo internazionale, facesse i passi in avanti più consistenti. E lo squilibrio dei rapporti è evidente, non c'è un'eguaglianza di rapporti e di possibilità tra il Tibet e la Cina popolare. Abbiamo di fronte un gigante, un paese, una realtà molto più piccola e molto più debole. Io penso che spetti, così, a differenza di quello che accade nella storia molti secoli fa, al gigante di fare qualche passo in più in avanti, dimostrando che la crescita, la politica cinese in questi decenni, in questi anni, è in grado di superare anche tutta una serie di questioni storiche molto difficili. Non mi aspetto che il problema tibetano scompaia dall'agenda, è un problema interno per la Cina. Credo che questo, io penso, non cambierà. Il Tibet, il Xinjiang, in modo diverso Taiwan, sono considerati, e io credo che su questo i cinesi non transigeranno mai, posso sbagliarmi, ma questioni interne, non questioni internazionali. Questioni loro, questioni interne loro. Tuttavia, anche all'interno di questa sfera che è difficile superare, io penso che ci possano essere modi diversi di avvicinarsi a una soluzione più che renda una cosa. Credo che anche per la stessa Cina, alla fin fine, l'idea di avere periodicamente questa instabilità, questa insoddisfazione, questi problemi, l'eco che dà a livello internazionale, giusto o strumentalizzato che esso sia, sono cose che non possono, credono, giovare complessivamente all'immagine di un grande paese. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini e a Daniele Teruzzi in regia. Buonanotte.